America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. When I'm elected, I will suspend immigration from areas of the world where there is a proven history of terrorism against the United States or our allies. Donald Trump, che pronuncia queste parole così provocatorie sulla necessità di chiudere le frontiere ai musulmani. Le sue dichiarazioni hanno avuto uno strascico sotto molti punti di vista. Alcuni giornali hanno interpretato le sue parole contro Barack Obama, debole, e come mai è così debole, e che cosa c'è dietro. Tutte queste erano insinuazioni di Trump come una denuncia aperta di una collusione di Barack Obama con il terrorismo islamico. Ecco, il presidente non ha risposto direttamente a queste accuse, ha risposto però Trump, che ha subito tolto gli accessi stampa ai giornalisti del Washington Post che avevano dato questa interpretazione alle sue parole, interpretazione che poi Trump ha naturalmente smentito. Are we going to start treating all Muslim Americans differently? Are we going to start subjecting them to special surveillance? Do Republican officials actually agree with this? Because that's not the America we want. Nel frattempo la risposta del presidente Barack Obama, non alle insinuazioni di Trump, ma alla chiusura delle frontiere per i musulmani. Il presidente, senza nominare direttamente Trump, dice che una politica di questo genere è una bancarotta morale e politica. Siamo una sola squadra, una nazione, questi sono i valori che ISIS cerca di distruggere, non possiamo lasciare che vinca. Obama ha ricordato le pagine vergognose della storia americana quando certe discriminazioni furono applicate, non ha fatto riferimento alle indiscrezioni secondo cui il terrorista Omar Mateen potesse essere gay e dunque in realtà non fosse ispirato affatto dall'estremismo islamico, tesi che da qualche parte prevale. In realtà in questa vicenda interagiscono vari fattori, sicuramente la sharia, il rispetto di certe regole islamiche, sicuramente la possibilità che fosse magari gay, un gay represso, e quindi volesse chissà vendicare su se stesso il fatto di aver violato la sharia, questo non lo sapremo mai. Ecco, molta polemica naturalmente su questa storia delle frontiere. Io con me ai microfoni di America 24 per parlare proprio di questo, perché l'idea è di cercare non di creare i muri ma di far sì che possa esserci sviluppo economico a casa. Dicevo, ho con me i microfoni di America 24 Letizia Moratti, che è qui alle Nazioni Unite per partecipare a una conferenza dedicata all'Africa, ai giovani in Africa. Buongiorno signora Moratti. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, cominciamo da questo convegno, ma giovani, donne, imprenditoria, che cambiamento, che impatto ci può essere per far sì che finalmente l'Africa possa tenere questi giovani a casa? L'Africa è il continente più giovane del mondo, sono 200 milioni i giovani africani dai 15 ai 24 anni, occorre offrire loro opportunità di lavoro in Africa. Per questo motivo bisogna impegnarsi perché in Africa si creino le condizioni perché loro possano creare la propria impresa. Questo è quello che IFOR Impact Fondazione fa, lavorando nell'offrire dei corsi di management in modo tale che questi giovani, e ormai lo stiamo facendo in diversi paesi africani, quindi in Kenya, in Ghana, in Uganda, in Costa d'Avorio, in Sierra Leone e da quest'anno in Etiopia, in Senegal e in Tanzania, questi giovani possono creare la loro impresa. Sono diverse centinaia i giovani che sono stati formati e il 73% di essi ha formato la propria impresa o l'ha ingrandita. Quindi le condizioni per poter far sì che questi giovani non debbano lasciare i loro paesi di origine ci sono, bisogna impegnarsi per investire in Africa, investire in trasferimenti di conoscenza, investire in creazione di opportunità per le università perché possano fare questi corsi e appunto creare le condizioni per lo sviluppo in Africa. L'idea di questa fondazione è quella proprio di creare delle condizioni, di spingere. Tra l'altro, devo dire, capita in un momento questo incontro di questi giorni molto favorevole per l'Italia, perché abbiamo bisogno di far vedere quanto attivi siamo in vari paesi e nel contesto delle Nazioni Unite, perché fra una decina, quindicina di giorni ci sarà il voto, il 28 di giugno per essere precisi, per il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Quindi questa è una che aiuta anche. Come siamo messi su quel fronte, allora, secondo noi lei? Noi stiamo cercando di dare il nostro contributo come IFOR Impact, in particolare con due iniziative concrete. La prima, a seguito di un Memorandum of Understanding che abbiamo firmato con l'Unione Africana, con la Presidente Zuma, stiamo lavorando con 55 università in 22 paesi africani per sviluppare tutto il settore dell'agricoltura, nel quale sono impiegate tra l'altro l'80% delle donne africane, e l'agribusiness. L'Italia ha una grande capacità in questo settore, quindi credo che possiamo dare veramente un grande contributo. L'altro contributo è quello di trasferire, diciamo, un modello che è il modello delle medie e piccole imprese, il modello italiano che è famoso in tutto il mondo e che può portare opportunità di collaborazioni tra le medie e piccole imprese italiane e le imprese che nascono in Africa. Ecco, in che modo, perché abbiamo parlato finora così di concetti, di idee, imprenditoria, università, lezioni, agricoltura, progetti agricoli, ma si è tradotto in qualcosa di concreto questa vostra azione? Assolutamente sì, posso fare diversi esempi. In Kenya, per esempio, abbiamo un giovane imprenditore che ricicla plastica e trasforma la plastica riciclata in materiale di costruzione. Ha già impiegato 250 giovani dello SLAM della periferia di Nairobi e ne impiegherà 500 nei prossimi mesi. In Uganda abbiamo un nostro giovane imprenditore che ha creato una filiera proprio nel settore del caffè, arrivando a creare opportunità di produzione e distribuzione per 1 milione di agricoltori in Uganda. Un altro esempio è quello della Sivam, è un'azienda che è leader nei mangimi ed è un'azienda che sta lavorando in Kenya e Uganda per far sì che il catalogo dei mangimi, che in quei paesi è molto scarso, possa ampliarsi e fare in modo che quindi anche la produttività delle mucche da latte sia in quei paesi, pur rispettando le loro razze naturalmente, ma sia simile a quella che abbiamo nei nostri paesi. Parliamo di differenze che vanno da 5 a 20-30 litri al giorno. Questi sono esempi concreti di un ponte che tra università e aziende stiamo creando con l'Africa, ed è un ponte concreto per fare in modo che i giovani e le donne africane possano trovare nel loro paese d'origine le condizioni per non dover fuggire da situazioni di fame e di povertà. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, vi ho sempre con me ai microfoni di America 24, Letizia Moratti. Allora, una canzone per i nostri ascoltatori oggi, cosa le viene in mente? Africa, qualche cosa? Abbiamo parlato d'Africa, quindi potrebbe essere Under the African Sky di Paul Simon. Accetto, grande disco, prodotto, grande LP, prodotto in Sudafrica, Under the African Skies, Paul Simon. Joseph's face was black as night. The pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked his days under Africa's sky. This is the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!